benvenuti all'ottava puntata di Cialtroni nello spazio, trasmissione Marco di informazione informatica e cultura digitale libera e gratuita a volte. Beh, ci proviamo almeno. Vabbè, vediamo se Alessandro sa dire qualcosa di più intelligente che noi. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Allora, la solita trasmissione di Radio Onda d'Urto, che si occupa di copyright, informatica, libertà digitali. Il nostro sito è spazio.circolo.net, dove trovate anche la possibilità di mandarci email, comunicati e le vecchie puntate registrate con tutti i link che abbiamo utilizzato. E salutiamo anche il nostro ospite, è tornato con noi in studio, Andrea Gelmini del Lug BS. Ciao Andrea, grazie di essere con noi. Buonasera. Ecco, in realtà non abbiamo capito ancora cosa ci fai oggi qua, però insomma lo scopriremo più avanti nel corso della trasmissione. Trasmissione che oggi parlerà di che cosa? Parleremo di un... Come al solito un po' di notizie. Un paio di cose sullo spyware, una sentenza clamorosa che c'è stata in America questa settimana. Poi andremo a parlare del ancora un aggiornamento sul DRM della Sony, e legato a questo un discorso generale sul DRM e qualche consiglio per gli acquisti di Natale. Intanto parliamo di una notizia di qualche giorno fa. No, non iniziamo con le notizie, perché in realtà noi adesso tra pochissimo partiremo con l'argomento clou della serata e del pomeriggio. Ma Alessandro ovviamente se l'era già dimenticato. Tra pochi istanti ci collegheremo con C1, attivista di ECN, per parlare nei dettagli di quella che è insomma la crisi almeno finanziaria che sta investendo il portale di Movimento. Giusto il tempo di comporre il numero del telefono. Intanto se vuole Andrea può iniziare a inveire per quello che sarà un'altra parte grossa della nostra trasmissione, ovvero cosa non regalare a Natale: l'iPod. Devo parlare? Ok. Allora, intanto che facciamo la connessione, cambiamo un attimo il tappetino. Oggi utilizziamo dei brani scaricati da Mashup Town, che era un sito dedicato appunto al mashup, che è questa tecnica DJ di mescolare due o più brani musicali per generare uno nuovo. Appunto, il sito è stato chiuso dalla RIA, nel senso che la RIA ha impedito di conservare i file di questi mashup nel server americano. Il risultato è che Mashup Town continua a vivere e ha spostato i suoi file su un server ovviamente più piccolo, in paesi meno restrittivi e meno soggetti alle richieste delle major, come quello americano. E ci andiamo a sentire un mashup di una canzone dei Green Day, fatta da un DJ che si chiama Dean Gray, che ha avuto anche lui i suoi bei problemi con la RIA. Allora, come annunciato, siamo adesso in collegamento con Francesco, attivista di ECN.org. Ciao Francesco, grazie di essere con noi. Ciao a voi. Ecco, da alcune settimane è comparso sulla prima pagina di ECN una sorta di allarme rosso, un po' una sorta di crisi che sta, almeno finanziaria, che sta investendo il portale di movimento che negli ultimi anni è stato sicuramente molto conosciuto. In particolare mi viene in mente che qua a Brescia è stato conosciuto anche perché ha ospitato i vari siti del movimento bresciano, ma non solo, ovviamente sono centinaia i siti che sono ospitati su ECN. Ci puoi fare un po' il punto della situazione, Francesco? Sì, beh, allora intanto, come dire, la situazione di crisi è una situazione di crisi economica, ma non solo. Isole ha affrontato un cambio di guardia più o meno un paio di anni fa, quando gli storici del collettivo di gestione, che era diviso in una parte politica, workers, e una parte tecnica, tech, hanno deciso che come dire, loro si sarebbero fatti da parte per favorire una gestione nuova e magari più allargata del server stesso. Purtroppo questi due anni si è creata una lista immensa di circa 450 persone, credo, che comprende tutti i chiocciola ecn.org, ma questo allargamento non ha minimamente favorito la discussione, quindi la crisi è intanto politica. Questa mancanza presa di responsabilità ha portato all'inevitabile, nel senso che la logistica segue, senza una gestione politica manca una gestione logistica, e noi adesso abbiamo, come dire, il problema di non riuscire a pagare le prossime bollette. Il server dal punto di vista hardware mostra tutti i suoi limiti e sovraccarico, e non possiamo cambiarlo, e quindi abbiamo fatto un'operazione di riappropriazione tecnica del server. Abbiamo fatto una mini lista di gestione transitoria, nella speranza di riuscire a raccogliere, fare una campagna di sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a pagare almeno altre due rate, quindi fino a giugno del 2006, noi siamo coperti fino a fine anno, per quanto riguarda la banda, e magari riuscire a acquistare i pezzi necessari per sistemare il server, un server un po' più efficiente di quello che abbiamo adesso. Ecco, io devo dire una cosa, noi ci siamo parlati prima e io ho notato una roba che mi ha colpito, cioè che questo è l'ennesimo lancio allarmistico del tipo il progetto chiude se non vengono sottoscrizioni. Io credo che questa cosa mi è stata suggerita da alcune battute scambiate con te, ma in effetti credo che molti l'abbiano vista così. Cioè, un po' è scritta anche così sicuramente sul sito. La cosa che più risalta è proprio questo aspetto. Poi evidentemente ci deve essere sicuramente anche la spiegazione politica che tu stai cercando di dare. Relativamente a questo mi chiedevo se anche un po' il proliferare di vari progetti aperti come ECN, come potrebbero essere magari in qualche modo simili in Italia, non abbia anche in un certo modo favorito questa crisi? No, io non credo. Credo che nella logica di un orizzonte digitale libero, avere più, come dire, più punti di accesso alle informazioni sia una ricchezza. Non ho mai pensato che la replicazione di progetti togliesse energie, ho sempre pensato che fosse una ricchezza. Il problema è che non c'è una grossa consapevolezza dello strumento. Questo può essere una responsabilità di Isole o di autistici o di altri che fanno di media, di 31 febbraio, di chiunque faccia lavoro sul digitale, come può essere tranquillamente una mancanza di chi invece, utilizzando i servizi, non si pone in un'ottica propositiva verso gli stessi. Però in questo caso su Isole noi non vogliamo dare un giudizio, noi vorremmo soltanto riuscire a capire se tecnicamente possiamo tenere in piedi il progetto per almeno un altro po', e poi utilizzare questo altro po' per avviare una serie di discussioni, questa volta puramente politiche, sulla manutenzione e la gestione di un progetto, sul suo rilancio e su quelle che può essere, come dire, i termini di riflessione rispetto alle nuove leggi italiane sulle telecomunicazioni, gli altri gruppi politici che fanno lotta sul diritto alla privacy, all'anonimato, allo scambio di informazioni libere su web e non, e ai progetti che fanno comunque in qualche maniera libertari e sono affini a quelle che è la logica che c'è dietro ECN. Però quello che volevo dire è che è chiaro che ogni anno tutti i progetti dicono siamo in crisi, stiamo per chiudere, per favore sottoscrivete, solo che questa quanto riguarda isole è una roba che noi entro i primi di gennaio, entro la metà di gennaio capiremo, se non ci sono i termini economici per portare avanti il server accoglieremo una proposta che è stata fatta a suo tempo da Autistici Inventati di raccogliere l'eredità tecnica, mantenere l'autonomia politica, quel poco che è rimasto di identitarismo politico dentro il CN e come dire, in qualche maniera accollarsi anche le denunce che sono su ECN, ne sono ancora un paio, e trasferire tutto lì, e amen. Ti dirò, io poi vivo questa contraddizione in maniera forte perché sono sia di ECN che di Autistici, per cui... No, certo. Non è, cioè, non è nemmeno una situazione isolata la tua, immagino. No, no, no, anche se non è poi così tanto frequente. Attualmente il gruppo di Workers, che è questo gruppo che si è messo a lavorare dietro il CN, saremmo una decina di persone, credo di essere uno dei pochi che hanno il doppio passaporto, per così dire. Ma non è importante questo, come dicevo prima, anche se ci fossero dietro le stesse persone, avere più punti di accesso è fondamentale. È una... E come dire, avere più luci da guardare, più fari a cui fare riferimento sul mare, e avere un punto di approccio in più è anche diverso, perché comunque CN Autistici per la loro storia trattano con parti di movimento molto diverse, e è un bene, assolutamente. Francesco, per contribuire in che modo si può fare? Ecco, io pur sapendo che mi avreste chiamato, non ho con me i dati gli estremi della ricorda. No, per il conto corrente postale e bancario non c'è problema, lo possiamo dire noi. Mi chiedevo più che altro per contribuire al progetto in maniera, diciamo così, politica, tecnica o comunque anche solo. Noi abbiamo questa lista di gestione che è workers@icn.org, che in questo momento è a cooptazione chiusa, però non è blindata, è aperta a coloro che hanno competenze tecniche e competenze linguistiche, tipo di traduzione, cose varie, e comunque sono hanno voglia di prendersi un pezzo di responsabilità e magari anche soltanto scrivere i comunicati, rilanciarli. Noi stiamo lavorando a questo, stiamo cercando di tenere in piedi il server, quindi ci saranno amministratori, cose varie, trovare i soldi, quindi siamo persone che sono in grado di darci una mano con le iniziative, con i contatti, con gli spazi, con chi ha voglia di, e i soldi, quindi tutte queste, comunque, come dire, tutte queste cose ci servono, chi ha voglia di lavorare con noi, per poi mollare il colpo, se è chiaro, perché una volta che avremo rimesso in piedi il progetto dovremo discutere con chi è interessato ed ha un orizzonte politico da proporre, e ricominceremo da zero, l'idea di sciogliere questo gruppo di gestione tecnica e farlo convogliare in un gruppo più grosso, comunque più, come dire, capace di autodeterminarsi su piani e livelli diversi. Quindi chi ha voglia di partecipare si può proporre scrivendo a workers@cn.org e la lista di solito accetta o risponde alle proposte e agli stimoli che arrivano, di cui abbiamo tanto bisogno. Perfetto, Francesco, io ti ringrazio, ricordo anche che per poter contribuire si può invece fare un versamento sul conto corrente postale 37140209 intestato a Associazione Isole nella Rete INR@cn.org, l'indirizzo via Angelo della Pergola 5 a Milano. Ti ringrazio, Francesco, a presto. Grazie a voi, grazie mille. Ciao. Ciao. Thank you. niente, adesso riprendiamo un attimo con un po' di news di questa settimana. Una abbastanza triste è quella di questa mamma, la chiamano, che è colpevole di aver scaricato da internet una trentina di file MP3, questa donna americana, e è stata multata per $22,500 dal tribunale, sei un cialtrone, dai, cerca di imparare da un giudice federale dalla Corte federale in appello, quindi diciamo che la sentenza è già definitiva senza possibilità di rimedio, e quindi lei dovrà pagare questi $22,000. È appunto condannata perché ha utilizzato Kazaa, che è un programma di file sharing che attualmente è nel mirino delle major, e per queste 30 canzoni dovrà appunto pagare questa cifra. La vittoria dà nuova forza alla RIA, americana, che sta portando avanti questa campagna contro il peer-to-peer, per cui sono coinvolte circa 17.000 persone, di cui questa è solo la prima, o comunque una delle prime. Il caso è abbastanza eclatante proprio perché è la prima condanna definitiva per quanto riguarda il file sharing e le multe legate all'utilizzo di programmi file sharing. E in particolare questo risultato è stato ottenuto grazie alle leggi, appunto, che la RIA e la MPA sono riusciti a spingere per far passare dal governo americano, e con lo scopo chiaro di colpirne uno per educarne 100, in quanto ovviamente non riusciranno mai a portare a termine tutti i 17.000 processi che dovrebbero intentare contro gli indagati, appunto, per condivisione illegale di musica, ma in realtà mirano soltanto a colpirne alcuni in modo che la gente si spaventi e smetta di utilizzare la tecnologia di peer-to-peer per condividere la musica su internet. Altra azione delle major, stavolta siamo in Corea. Anche lì, come è successo in tra virgolette in Italia, anche se per il momento è sospesa la legge Urbani, l'applicazione almeno, anche in Corea i provider saranno responsabili delle attività svolte dai loro utenti. Questo vuol dire che dovranno monitorare, filtrare tutte le attività, soprattutto quelle riguardanti il file sharing, che i loro utenti fanno, pena multe salate e ritiro della convenzione, dell'autorizzazione ad essere internet provider. Quindi ennesimo giro di vite anche in Corea per quanto riguarda la libertà di comunicazione e di condivisione. E ovviamente i vari provider hanno protestato ufficialmente, in quanto questi sistemi di monitoraggio sono dei costi incredibili da parte che dovranno essere ovviamente tenuti da parte dei provider, e questi ovviamente dovranno andare a scaricarli sulle persone, sui fruitori dei loro servizi. E inoltre queste limitazioni, dichiarano appunto i provider, andranno a limitare di gran lunga lo sviluppo delle nuove tecnologie appunto in Corea era. Parliamo invece di liberazione della musica. È partito il 16 dicembre un progetto legato a Liber, di cui avevamo parlato anche l'anno scorso, un progetto piuttosto vecchio che da 11 anni distribuisce musica e distribuisce le libri riscritti che ormai non sono più fuori, che non sono più protetti dal copyright perché è fuori dei diritti d'autore. Oppure perché non lo sono mai stati, come ad esempio il caso eclatante quello di Luther Blissett, Q per esempio. Comunque il 16 dicembre è partito questo progetto e all'auditorium della Discoteca di Stato e Museo dell'Audiovisivo verrà presentato appunto il progetto che intende ridistribuire liberamente tutta quella musica classica, jazz, popolare che non è più protetta da copyright, ovvero incisa precedentemente al 1954. Diciamo che segue la farsa riga del progetto Liber e ne mantiene comunque i privilegi. L'unico problema è ovviamente la dimensione dei file, in quanto i file musicali sono più grandi di quelli di testo, però il progetto ha dimostrato di essere solido, non dubitiamo che sia in grado di sostenere comunque il carico di download e di la dimensione dei brani che renderà disponibili. Ci rimane da chiedersi per quanto tempo questi brani poi saranno comunque disponibili, in quanto ogni tot di anni sappiamo che la legislazione italiana ha attuato una politica di aumentare il massimo, il numero di anni per cui possono essere previsti i diritti di copyright su un qualsiasi brano, e quindi se aumentano di 10 anni ogni 5 anni riusciranno addirittura ad andare indietro nel tempo, per cui questi brani probabilmente tra una decina d'anni non saranno più neanche fruibili, anzi saranno di nuovo ritornati sotto il regime di copyright. Andiamo a parlare di nuovo di Digital Rights Management, ovvero sia probabilmente il futuro di tutto quanto riguarda la musica. Cosa sono questi DRM, Alessandro? Allora, la sigla indica Digital Rights Management, ovvero controllo dei diritti digitali. Sono una serie di tecnologie diverse tra di loro, applicate a livello hardware o software, che garantiscono il software o comunque i dati digitali che vengono caricati o eseguiti all'interno di un calcolatore, di un apparato hardware, di un lettore MP3, quello che volete, siano stati acquisiti in maniera legale, quindi pagando i diritti d'autore. Questa è una descrizione generica di come funziona il DRM. Esatto, abbiamo parlato anche nelle settimane scorse del nuovo DRM della Sony, che ha creato un sacco di scompiglio e ha fatto fare una figuraccia alla Sony a livello mondiale, obbligandola a ritirare qualcosa tipo 6 milioni di CD che aveva già prodotto. E niente, la Sony, giusto per dimostrare di non capire assolutamente un tubo, è partita con un nuovo sistema di protezione dei Digital Rhythm, un altro sistema DRM che si chiama appunto MediaMax, che anche in questo caso ha creato un sacco di scompiglio in quanto crea problemi di sicurezza incredibili. E addirittura, come nel caso precedente, dopo aver fatto il sistema di protezione, avevano mandato una patch che correggesse appunto la pericolosità del sistema, anche in questo caso hanno mandato una patch, e come nel caso precedente, e anche in questo caso, sono riusciti a creare una patch che crea ancora più problemi di quelli che dovrebbe andare a risolvere. Quindi diciamo una situazione abbastanza pesante per quanto riguarda la Sony nel panorama della musica, nel panorama appunto della musica. Sempre riguardo al DRM, appunto, andiamo a parlare di un'altra azienda che sta sviluppando della sorta di DRM camuffati, ovvero la Apple, che ha avuto una discreta rinascita negli ultimi anni con la nuova linea di Power Mac che sono usciti. Sono effettivamente delle buone macchine che l'hanno risollevata dalla crisi che stava vivendo. Però andiamo a parlare di un altro prodotto Apple che ha avuto un particolare successo nell'ultimo anno, si chiama l'iPod, e di cui Andrea è un particolare fan. Infatti sì, questa è possiamo chiamarla la parte della trasmissione dedicata ai non regali di Natale, quello che non conviene regalare, o almeno buoni motivi per non regalare qualcosa. Iniziamo dal prodotto della Apple. Come mai, Andrea, visto che ti ho visto così entusiasta nelle scorse settimane, visto che avevi presentato, cioè vi fate rivenuto in trasmissione con un tuo aggeggino tanto carino che faceva vedere filmati, musica, suoni, eccetera, però non mi sembra più così soddisfatto. Oddio, no, sull'iPod ci sarebbe molto da dire, nel senso che è stato in effetti l'oggetto che ha risollevato le sorti di Apple, portando non solo a quadratura ma anche in guadagno i bilanci dell'azienda di Cupertino, ed è stato anche tecnologicamente un grosso passo in avanti nel settore. La riflessione che volevo proporvi, volevo fare... Chiamiamolo l'editoriale di Cialtroni dello Spazio di questa settimana. riguarda le finalità dell'iPod, nel senso che vi sono un mucchio di informazioni che non troverete mai nei blog o in tutte le recensioni che troverete su riviste, e che secondo me vanno poi a compromettere l'idea del prodotto finale. Ossia, se dai pro, e si comincia sempre dai pro quando si vuole bastonare qualcosa, possiamo dire che la lucentezza dello schermo eccetera eccetera lo rende davvero un prodotto che si può guardare e si può utilizzare appunto anche per la visione. Dall'altro è vero che è bene tenere presente, per non cadere nella trappola in cui sono per esempio caduto io, che l'idea di Steve Jobs, se in prima battuta parlo degli iPod prima della quinta generazione, era quella di avere, di poter comprare comodamente della musica da iTunes, portarlo su macchine, sul classico PC di casa, e poi poter con iPod portare dal classico PC o Mac di casa su un device da potersi comodamente portare nel taschino e portare in giro. È vero che con la nuova generazione, cioè la quinta generazione di iPod, l'idea è stata proprio invece quella di dire: vendiamo anche i video musicali. Questo per arrivare a dire cosa? Arrivare a dire che se in un impeto di sfrenato acquisto come quelli su cui sono solito vittima io, si pensa di comprare un iPod per arrivare a casa e cominciare a caricare la musica e i video che si vuole per poi uscire e ascoltarli, in realtà la situazione non è così rosea. Cioè l'idea di fondo esatto dell'iPod è proprio questa: permetterti agevolmente di acquistare delle cose, di caricarle su dei mezzi che possono essere il tuo computer di casa / l'iPod stesso, e poi fruirne. Ora non se ne fa, per amor di Dio, un giudizio di merito. Detto questo, però, bisogna stare attenti, perché un prodotto del genere, che ha un costo significativo e che può far prendere assalto il cuore dei tecnofighetti come noi, che vanno alla ricerca spasmodica dell'ultimo gingillo con cui bullarsi con le ragazze ai bar, può portare a prendere una grossa cantonata nel momento in cui si scopre che appunto l'operazione di caricare ciò che si vuole, quindi per ascoltarlo o per vederlo non è così immediata nel momento in cui esce dal canone, che è compro da iTunes, carico sul mio computer e poi carico su iPod. Allora, per capire Andrea, se io ho un film sul mio computer, di solito la Apple era abituata a rendere le cose il più semplici possibile. Se io ho un film sul computer, posso o non posso metterlo su iPod? Allora, sì, in teoria, è quello che vi dirà anche qualsiasi venditore. Cioè, al di là di Linux o di Apple, perché con Linux è un po' più difficile. Senza voler entrare in questioni tecniche che adesso non ci interessano e su cui la rete è piena di informazioni, il punto fondamentale è proprio questo. Cito un dato, tanto per capirci. Nel mio caso, arrivato a casa con l'iPod, attaccato a un computer, anch'esso Windows, eccetera, non è stato immediato caricare la musica e dei video, anzi a dirla tutta, finora dei video non sono riuscito a vedere nulla che non fosse quello proposto come demo. Ora, il punto è proprio qui. Questa situazione tra l'altro non tocca solo noi utenti, che il Mac non lo usiamo, ma tocca anche utenti Mac, e questo lo dimostra il fatto, il proliferare incredibile di strumenti anche free per fare l'encoding e così via. Quindi, punto fondamentale, non prenderete il vostro DivX piuttosto che preferito, lo caricate e lo vedete, ma prima di caricarlo dovete encodarlo secondo una metodica molto precisa, sia per quanto riguarda l'audio sia per quanto riguarda il video, ossia in un particolare formato H264 dentro un container che non può essere AVI ma deve essere MPEG 4, questo per chi vuole entrare un po' più nel dettaglio. E quindi ripeto, bisogna stare attenti sul target. Il target per cui nasce l'iPod è quello di chi compra la musica da iTunes e se la carica. Questa operazione la fai in un nanosecondo, ma nel momento in cui tu questa operazione non vuoi farla perché tu ti vuoi caricare i tuoi film o la tua musica, la cosa non diventa così banale, anzi non lo è per niente. Detto questo, di prodotti scaccioni e piuttosto penosi, il mercato ne è pieno. Tant'è che soprattutto nel periodo natalizio io sconsiglierei questo accadimento da consumismo ipertecnologico di fare acquisti. Adesso arriva anche la morale di Cialtroni dello Spazio, esatto. L'editoriale. La morale è sempre quella, fai merenda con Girella, che peraltro è da Ferrero e non so se sta nelle vostre liste di boicottaggio. E cosa vuol dire questo? Assolutamente nulla. Dai, continua il tuo discorso che siamo già a 5 minuti di trasmissione e qua si fa tardi. No, concludendo invece con qualcosa di più serio. Bella scalpita per fare la sua trasmissione. Concludendo qualcosa di più serio, no, quello che mi interessava ed è la ragione per cui sono qui stasera, ricordare che dall'inizio di giugno inizieranno gli appuntamenti mensili del Linux User Group di Brescia. Il primo appuntamento, che sarà a gennaio, riguarderà tutte le problematiche legate ai reati informatici, problemi di copia e quant'altro. Ora, il livello della serata non sarà elevatissimo, per quanto ci saranno esimi esperti del foro a discuterne, non i soliti cialtroni tipo Marco Ghidinelli, a sparare cose. Ora, e quindi l'appuntamento non è ancora definito né come data né come luogo. Questo appunto lo stiamo preparando in questi giorni, ma se tenete controllato il sito del LugBS, che è appunto www.lugbs.it, potete trovare tutte le indicazioni del caso nell'imminenza della manifestazione. Perfetto, e con questo, anche se Alessandro continua a abbassarmi il microfono e si vede che la mia voce non si sente più, potremmo passare alla sigla e chiudere Cialtroni nello spazio. Ah, sigla? Ah, non ha capito che deve alzare il volume di PC su questa levetta. Okay. Cambieremo mixerista, è una promessa. Adesso fa l'offeso. Cialtroni nello spazio, appuntamento per mercoledì prossimo attorno alle 12:40. Ciao a tutti.